Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Prima puntata. La disciplina senza abbandono è paranoia. Booming 5. Ma andate a vedere cos'è la vita di un ciclista e quanti uomini sono in preda a orrida tristezza. Marco Pantani, parole annotate sul passaporto nel dicembre 2003. Primo capitolo. Serenni Claudio cerca un pensiero pulito. Deve concentrarsi su numeri, prestazioni cronometriche da raggiungere, le date delle prossime gare. Le immagini che scorrono dal finestrino dell'autobus danno disagio. Lavavetri, mendicanti, storpi, tossici, sgradevoli, come i ragazzi con i nuovi standard di abbigliamento sinistroide, le teste di cazzo di Genova. Quelli che hanno dato fuoco alle concessionarie di auto, quelli che si sono abbandonati a devastazioni per un'idea inquinata di giustizia sociale. Per lui ammazzarne uno è stato poco. A Genova c'è stato per un campionato italiano indoor. Il palazzetto dello sport è una bomboniera in periferia, un luogo ovattato e neutro dove non arriva l'odore di acqua marcia di quella strana città. Strana, come tutte le città assopite sul mare. Da juniores per poco non era entrato nel gruppo sportivo militare della Polizia di Stato, le Fiamme Oro. Chissà, avrebbe potuto essere a Genova nei giorni del G8. I fichetti che restringono la sede stradale per affollare il locale aperitivo più trendy non sono meglio, con le loro camicie a righe fuori strada parcheggiati senza pietà per il resto del mondo. Milano è piena di teste di cazzo. Lights è stato un pacco. La fine della New Economy anche. Nulla di definitivo, un'umanità strisciante, comatosa, ma esente da traumi apocalittici. Vorrebbe non scendere mai dal 31, vorrebbe continuare a girare attorno a quella gente orribile senza toccarla, senza parlare al conducente, scambiare cenni d'intesa schifati. All'altezza di Viale Lambro salgono un ragazzo e una ragazza. Lui è un magrebino, lei una bionda pallida come la morte, poco seno, fianchi deformi. Il riflesso delle insegne luminose mette in risalto il lavoro dell'acne su una cute disperatamente grassa. Indossa un giubbotto beige col collo in pelliccia sintetica, stretti al petto i libri di testo universitari. Lo studio di materie umanistiche, l'imbroglio intellettuale che ne consegue, le negano l'evidenza concreta dei fatti, le inibiscono l'istinto naturale e i messaggi connessi. Ripudia la discriminazione razziale. Prende per apertura mentale la sua irrazionalità. Ignora le insidie della mescolanza tra razze. Il magrebino dai muscoli nervosi la stringe forte. Un matrimonio dovrebbe fare miracoli per il permesso di cittadinanza e il testosterone nordafricano non si fa scrupoli. Figli bastardi, Milano condannata al meticciato. Gli sguardi si incrociano. Serenni Claudio ne ha fissati molti come lui. Nei minuti di riscaldamento, durante gli ultimi riti prima della partenza, sono emotivamente gelidi, fisicamente indistruttibili, sopportano carichi di lavoro che sfilacciano i tendini e debilitano l'organismo di atleti europei. È per questo che i tecnici che fecero grande l'atletica italiana degli anni Ottanta oggi allenano e gestiscono solo materiale umano di origine africana. Prelevato sul posto da talent scout increduli di tanta forza e resistenza, zelanti manager li piazzano nelle gare su strada o nelle riunioni in pista di tutto il mondo. Solo gli sponsor non sono entusiasti. Vanno come treni, ma non si impigliano nell'immaginario collettivo. La gente fatica a distinguerli uno dall'altro. I medici sportivi più bravi si sono chiamati fuori dal mondo dell'atletica, spazzati da inchieste giudiziarie ipocrite. Oggi la resa economica non giustifica sforzi e rischi. Serenni Claudio non abbassa lo sguardo, non lo abbassa mai. nelle ultime gare della stagione invernale è stato l'ultimo italiano ad arrendersi alle progressioni di keniani, etiopi, marocchini, algerini, burundesi, atleti del Qatar. Il primo dei bianchi, sempre più spesso indicato così nei trafiletti delle pagine sportive. Per lui gli ingaggi sono più alti rispetto a quello dei neri. 500 euro per una gara sotto i 12 chilometri. Per correre i 21 chilometri della mezza maratona potrebbe arrivare a 1500 euro. Solo per presentarsi alla partenza e punteggiare di rosa il nero gruppetto di testa. Ma non basta. Oggi sente che non basta più. Continua a fissare la coppia. Tra i piedi hanno una borsa sportiva. Cazzo guardi? Di certo non la tua puttana bionda. Siete merda. La porta centrale si apre per una propizia fermata a richiesta. In 40 secondi fa 300 metri senza girarsi. Ginocchia alte, spalle rigide. I battiti si assestano subito sotto i 150. È in condizioni fantastiche. Non vede la bionda con il dito medio schiacciato al vetro e la bocca dilatata verso estensioni di rabbia feroce. Non vede il magrebino che stringe i denti e si fa un nodo nel cervello con la sua faccia. Sorride davanti alla vetrina di un negozio sportivo quando il pericolo è passato. 170 chilometri settimanali, 12 allenamenti da gestire in due sedute al giorno, 6 giorni alla settimana, uno di riposo, di norma il penultimo prima della gara. Nel periodo invernale gli allenamenti quotidiani arrivano a 3, considerando la seduta di tecnica o di potenziamento con i pesi. L'alimentazione prevede un limitato abuso di grassi e zuccheri composti. Si predilige la dieta dissociata, a pranzo carboidrati, a cena proteine. Recenti studi hanno però evidenziato i pericoli di un pasto di soli carboidrati. Un'alimentazione così ripartita causerebbe un aumento dell'insulina prodotta dal pancreas. Il meccanismo dell'insulina diventa perverso. La glicemia si abbassa, il cervello va in crisi e invia all'organismo gli stimoli di debolezza e fame. 10 sono le ore di riposo notturno consigliate. Negli atleti evoluti il concetto di riposo è sostituito da quello di recupero. Il recupero è la base costitutiva di buone sensazioni atletiche. Nessun tormento deve minare il sonno. Di notte i mattoni degli amminoacidi devono costruire fortificazioni inattaccabili. Finire un allenamento di qualità con i crampi e svegliarsi la mattina seguente doloranti e indolenziti evidenzia errori nella preparazione. Catabolismo, necrosi delle cellule, disintegrazione di materia vivente, decomposizione proteica, quanto di peggio. Sarà bene riconsiderare le metodologie, procedere ad analisi ematiche per individuare la causa della debilitazione. Sono fondamentali i valori di ematocrito, emoglobina, ferritina, sideremia, senza dimenticare il testosterone endogeno. Per arrivare a livelli di eccellenza, un atleta evoluto si sottopone ad allenamenti massacranti. Fare allenamenti massacranti usura l'organismo. Un organismo usurato non riesce a tollerare lavori pesanti. Questo cortocircuito è il nucleo fondamentale, il buco nero che ti può risucchiare per sempre, fino a farti sparire, dimenticare, o ti può rigurgitare campione celebrato. Sregni Claudio, classe 1980, mezzofondista in forza al CUS Milano, queste cose le sa. Non è tipo da «Ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno». È giovane ma cosciente, giovane solo all'anagrafe. L'angoscia lo sta facendo crescere troppo in fretta. Fregni Roberto, classe 1954. Una discreta carriera agonistica a livello nazionale. Oggi allena. Ha appena finito di segnare su un foglio Excel numeri, virgole, puntini. Prepara una decina di mezzofondisti di società lombarde. Collabora da sempre con la federazione come consulente, settore giovanile. All'esterno della rete una seconda persona segue l'allenamento. Se ne va prima dell'ultima prova cronometrata. Prove ripetute e lunghe. Corse su distanze variabili, di norma dai 1000 ai 2000 metri, precedute da un riscaldamento tipo gara. Si effettuano in congruo numero e a velocità inferiore al ritmo previsto in gara, con pause di recupero relativamente brevi effettuate in corsa lenta. Gli impianti sportivi sorgono in una zona semidesertica, tra capannoni dismessi che aspettano di essere acquistati dalla mafia cinese o convertiti in centri culturali islamici. La campagna è irriconoscibile, Una vegetazione rinsecchita disturba e interrompe la linea dell'orizzonte. In un'era lontana quella terra aveva dato reddito ai proprietari, fino a quando il commercio dei prodotti agricoli aveva alimentato una residua fetta di mercato. La pista di atletica confina con due campi di calcetto di materiale sintetico verde e un campo di tennis in terra battuta rossa che in inverno viene coperto da un pallone gonfiabile. Una nube gravida di cattivi presagi tiene in ostaggio solo la pista in tartan a 6 corsie. Ho la gamba fredda. E in effetti è una stagione strana, il clima è impazzito. Ma non è questione di clima. Sto parlando di gamba vuota, sto parlando di vascolarizzazione a culo, sangue che non arriva in tutto il corpo, motore che non va in pressione. Beh, i test ematici vanno bene, mi pare. Li hai fatti appena 10 giorni fa. Faccio gli allunghi e non sento le gambe sotto. Beh, i tempi ieri sono venuti, 8 miglia tutti sotto i 2,52, l'ultimo in 2,49. Ho la gamba fredda e fra 3 weekend ci sono i campionati di società. Devi solo riempire un buco nei 3000 siepi. Non ti si chiede molto, solo una gara dignitosa, qualche punticino. Sì, forse non sono finito. Qual è il problema? Questo è l'ultimo anno che corro, giuro. Ma un mese fa hai fatto 6° agli italiani assoluti di campestre. Il primo era l'ucraino, secondo un burundese, tesserati per società italiane. Ho cattive sensazioni. Quando vado in lattacido penso alle cose tristi della mia vita, alle cose tristi in generale. O faccio il botto quest'anno o mollo. Succedeva anche a me quando correvo, ma io avevo problemi veri. Gareggiavo a livelli ancora alti con un figlio e una moglie a carico. È normale. Quando hai questi momenti, devi pensare che anche i tuoi avversari hanno lo stesso problema, che sono nella merda almeno quanto lo sei tu. Anche a loro l'acido lattico gli intasa il cervello. I burundesi e gli africani in genere non hanno cattivi pensieri. Voglio dire, non hanno pensieri in genere. Sono più vicini all'animale nella catena evolutiva. È per quello che non sentono la fatica. Giuro che sei l'ultimo fascista che alleno. Ma vaffanculo, non si può nemmeno scherzare. In fondo rubano il lavoro a noi italiani. Appena ci sono 50 euro di premio al primo arrivato in una corsa regionale, arrivano 8 negri da 28 minuti su 10.000 e buonanotte. Ma vai a farti la doccia, non è il momento di ammalarsi né di dire cazzate. Il sangue non ti arriva ossigenato al cervello. Ah, senti, per le gambe fredde, chiedi a Giulio. A quest'ora dovrebbe essere ancora al bar del tennis. Magari un paio di scatolette di Epargrisiovit possono fare qualcosa. No, l'Epargrisiovit non mi fa proprio un cazzo. Mi sa che il fisico sia assuefatto. Ma il tuo è solo un problema di testa. Sono stufo di queste cazzate. È una vita che le sento. Risolvere espressioni matematiche è un problema di testa. Correre il prossimo autunno una maratona vicino alle 2:10 è un problema fisico, molto fisico. Sangue, muscoli e palle. L'Epargrisiovit puoi provare a iniettartelo per via endovenosa con una siringa per diabetici da 1cc. Non mi piace andare in farmacia a chiedere siringhe da 1cc. Sa che non dobbiamo avere rapporti intimi il giorno prima della gara, anche se la corsa è di pomeriggio. Sa che mi astengo da ogni attività sessuale il martedì e il giovedì. Martedì e il giovedì faccio i lavori pesanti in pista, resistenza e potenza aerobica. Dopo la doccia ho un rilascio di endorfine ad alto livello sedativo. Mi addormento sulla spalla di Sara, mi risveglio verso le 3 di notte davanti a televendite di gioielli e tappeti. Ho fatto ricerche, pare che a stendermi sia l'anandamide, un nome impossibile per una sostanza che dovrebbe avere effetti simili alla marijuana. Il lunedì faccio solo resistenza alla velocità e prendo pastiglie di Cobaforte, principio attivo a base di B12, che aumenta la fame e la quantità di liquido seminale. Evito stimolanti. L'efedrina mi intreccia le dita dei piedi e mi rende inquieto. Il lunedì e il mercoledì sono ideali per Sara. Sbrighiamo le formalità di un sesso collaudato e sempre meno sperimentale, tecnicamente ineccepibile. Sono 5 anni che stiamo insieme e nemmeno si è accorta di quali siano i giorni buoni. Abbiamo ritmi radicati di cui non ha consapevolezza. L'atletica ha un potere narcotico e si prende tutta la mia vita. Il resto è corollario al punto centrale, il giorno della gara. Sara non ha consapevolezza nemmeno di questo. Un atleta evoluto ha bisogno di una fidanzata tranquilla e con poche pretese. Di modesta intelligenza, l'aspetto fisico è secondario, anzi è preferibile una tipologia di femmina poco appetibile per gli altri giovani maschi. Si evitano escursioni emozionali. L'atleta evoluto ha bisogno di tranquillità e pochi sbalzi d'umore. Donne che si accontentano di televisione e cinema, proiezioni delle 20, mai quelle delle 22:30. Gli atleti evoluti intervistati da riviste specializzate mettono tra gli hobby al primo posto la televisione. È tristissimo. Pare davvero che l'energia vitale sia quasi interamente esaurita dalla corsa. Non ho ancora capito se a Sara piace assistere alle gare, alle mie gare. Dovrebbe essere orgogliosa, eppure dimentica di impostare il timer del videoregistratore. Non mi segue nelle trasferte. Sembra infastidito o assente quando i nostri amici sollevano l'argomento. Chiedono notizie sulle mie ultime prestazioni o qualche consiglio per i loro goffi tentativi di intraprendere tardive attività motorie. Sanno che non posso bere alcolici e mangiare schifezze. Sanno che seguo un regime alimentare molto rigido. Hanno smesso di fare commenti acidi e allusivi sulla presunta mesta vita dell'atleta, sulla mia vita. Hanno capito che so di non perdermi proprio un cazzo. È la forza della televisione. Mi hanno visto alla Stramilano agonistica in qualche corsa campestre nazionale su Rai Sport Satellite. Tanto è bastato a farli tacere. Sanno che devo limitare le esposizioni al sole, che non posso fare partite di calcetto sulla sabbia. Rischierei la stagione e non mi considerano nella formazione delle squadre. Non voglio palloni tra i piedi, voglio procedere senza intralci. Ho pena di loro mentre li osservo ai bordi dei campi delimitati in un modo sghembo e impreciso. Ho pena del loro misero entusiasmo ludico per un gol o per una battuta sotto rete a beach volley. Regressioni infantili disgustose. Che ne sanno di cosa si sente a chiudere in 26 secondi gli ultimi 200 metri di un 5000? Che ne sanno delle montagne russe, dell'adrenalina e dell'endorfina? Finiscono la serata in qualche discoteca piena di imbecilli, in attesa di un altro lunedì in ufficio. Io sono qualcuno e voglio qualcosa. Ho un progetto, o almeno un sogno. I miei racconti Sara li ha sentiti in repliche infinite, ridotti all'essenziale, alla sintesi dei risultati cronometrici o di classifica, oppure resi barocchi negli imbrogli della memoria. I successi giovanili inesauribili fino all'assuefazione, poi le prime epiche battaglie con i mostri guerrieri, gli atleti africani, quasi sempre perse, nate disperate, destinate al fallimento, pervase di eroismo alla Don Chisciotte. La mia mancia sono le piste rosse in tartan, i campi sconnessi buoni per le corse campestri, le strade di paesi dalle piazze tutte uguali. Sara già alla prima replica pare assente. Non fa domande che aprirebbero nuovi capitoli. Guarda i presenti supplicandoli silenziosamente di fare altrettanto. È preda di tic nervosi. Gioca con le posate, lascia che si esaurisca l'argomento, ma non ne propone altri. Di certo non posso dire che è succube dei miei successi né che mi è di intralcio nel rigore di una vita metodica e ascetica. Non facciamo vacanze vere e proprie. Non ne abbiamo mai fatte. La preparazione non prevede interruzioni, nemmeno nei periodi lontani dalle gare importanti. Una volta, nell'ultimo anno da juniores, mi ha seguito in uno stage alle Canarie. Alloggiavo in un albergo a poche centinaia di metri dal nostro centro sportivo. Facevo 3 allenamenti al giorno. La sera si tenevano lezioni di teoria. Biochimici, tecnici, psicologi si aggiornavano sulle evoluzioni delle nuove metodologie di preparazione. Sara passò 10 giorni da sola su spiagge sassose, lambite da un mare a 13 gradi di temperatura. 10 giorni a maledirsi e a maledirmi. Quando un estraneo mi chiede che lavoro faccio, con una sobria aria di superiorità sul mio interlocutore dico i 5000. Mi compiaccio di quei secondi di imbarazzo e curiosità e attendo la replica. Cosa fai? Corro. Sui 5000 metri ho ottenuto i risultati migliori. Atletica, fantastico, gli anelli, il corpo libero. No, quella è ginnastica. Ho detto che corro. Atletica leggera. Ah, e ti pagano? Non abbastanza. Beh, non è mai abbastanza, Ma fai una cosa bellissima. Non ho le ferie e nessuna forma di previdenza. Corro 12 mesi all'anno, in genere 2 allenamenti al giorno. Se ho un infortunio e non posso gareggiare si fa pesante. Non corro per un gruppo sportivo militare. La mia società mi passa un mensile fisso ridicolo. Capisco, non credo. No, davvero, immagino i sacrifici, ma anche le soddisfazioni. È tutto automatico. Non sono soddisfazioni, non c'è allegria. Al massimo è un provvisorio allentamento della tensione. Una buona gara è solo un sollievo, come togliersi un paio di scarpe di 2 numeri più piccole. E perché ti metti 2 scarpe strette? Penso per avere un'identità. Tutti dobbiamo averne una. L'interlocutore a questo punto cerca una scusa per allontanarsi senza sembrare scortese. Chi fa sport dovrebbe consegnare ondate di energia e positività. Sei forte, resistente. Sopra la mascella larga dovrebbero aprirsi ampi sorrisi a intervalli regolari. Dovresti avere la fisicità di Dean Karnazes, l'assurdo ultramaratoneta americano con il fisico da culturista, i suoi occhiali da sole, il suo ufficio stampa. Dovresti dispensare consigli, esprimere concetti basilari, semplici. Non dovresti perderti in labirinti di analisi e prese di coscienza. Se lo fai, semini delusione. Io riesco a essere sgradevole. Prima che il mio interlocutore riesca a scappare, lo incalzo con la diarrea. Scusa? Sì, un piccolo virus intestinale. Tutto da rifare. Sì, è davvero commovente, deve essere una vita d'inferno. Scusa, ma vado a farmi un bicchiere di quella roba verde. Spero sia alcolica. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.